tanto. La gente que me juzga, el chisme siempre busca, busca que estoy acostumbrado, si nada te mereces. Con estupideces no te quedas en pie. Dame una razón para retirarme, para yo callarme, para que acontentarme. Camino sobre las paredes, flow parkour, en medio de la jungla de Betancourt. Lejos de los bichos, vivo al lado a bichos, entre los llantos de viejas y mijos. Desde pequeñito, mi nombre calladito, viaja por los barrios y sus gritos. Se vuelve a tu cama y prende la luz. Yo soy el demonio que voltea tu cruz. Más speed que speed flow, pánico con una bomba dentro al bus. Ti hanno detto che la scena era defunta, ma nell'acciaio batte ancora un cuore come Gundam. Come Cazzana questa scena do una giunta. Il flow miete come un macete nella giungla. Si allunga come Dalsing, la lista degli scarsi è proporzionale ai traguardi. E se mi chiedi fra quanti anni farai il salto avanti, so che forse non lo farò mai. Soffremo su come Frankenstein, mister. La mia banda suona live al TT Twister. Vieni stasera sister, coi tuoi amici hipster. Le ostagli faranno crop tipo chipster. Oh mille, rime che ti incollano alla sedia tipo un thriller. Rap Frank Miller, tu fai ridere Ben Stiller. E non fare l'indiano se c'hai davanti Tex Wheeler. Hai mai sentito parlare del club Mamma Macete? Taglia le teste tipo Mujahideen, hardcore sul beat, siamo Kill Supreme. Sta gente lo sa come va, sul palco nessuna pietà. E questo è tutto quello che ho, tutto quello che ho. Come sempre questa è fatta, l'ora tarda, lo capisco dalla vista che sapanna. Io creo labirinti in audio, sono il minotauro che fotte con Arianna. Ah, dentro piango ma vi faccio forte dentro con la musica nell'anima. Ciò che scrivo prende vita e si agita, quando rimo appare Satana Fatima. Genoflessi per la vita che lacera, capoversi tipo codici in algebra. Per evidenziare un ambiente da rifare, dalla cattedrale alla cattedra. Generazioni che continuano a perdersi, quanti corpi vedi con la scritta vendersi. Quanti colpi ancora prima di riprendersi, ma non ci sterminerete come Kennedy. Yeah, rimaniamo con i piedi a terra, con i made in vista, siamo ancora in guerra. Come i cazzo di spartani, più dopato di pantani. Non mi vedi nemmeno a due metri, e non ti meriti che alzo le mani. Non ho metri che ma tsunami, giro solo con i veri e tu mi ami. Sono stufo di chi cataloga, di chi dialoga, di chi vive di bugie in una favola. Sono stufo di chi intavola discussione, senza arrivare mai alle conclusioni. Questi suoni sono contusioni, sono morti bianche per i tuoi padroni. Siamo quelli che li sfruttano, chiamaci papponi. Ti opponi, tu muori. Hai mai sentito parlare del club Mamma Macete? Taglia le teste tipo Mujahideen, hardcore sul beat, siamo Kill Supreme. Sta gente lo sa come va, sul palco nessuna pietà. E questo è tutto quello che ho, tutto quello che ho. A cazzo di blog, esolvere live, ogni testa è una bomba, non sa ci lo sai. A voce se spanda, a voce sto plan, a notte ma dormo per guai. Sogna vesti visa, bamba va cisa, fumo do cisa, high can fly. Porto ma weed, portate chilo, cacca da cilo, si do fai. Scillo sistemi, appare il pavello, lontana, rimagino lì. Accorti, e valca son fama, ne vide ci stanno, lontana, ragazzi che scemo. Abbascio buttone, tradascio il gumone, la fanno nel buone, sa follo piazzare. Chi spende sto pugno, chi invece sottile, chi invece smascello, un luccio con dry. Quando entro su un pezzo dicono guarda sto pezzo di merda, ci sono la traccia un'altra volta. Spaccane che sembrano scimitare, c'ha le rime zare, sfidano e diviene la fabbrica, ma tra volta dicono che copio gli americani solo perché l'attacco fanno schifo e non sanno come difendersi. Col numero 9 più o meno dove tu non arrivi, ma ti chiedi questo qua è flow, dove li prendiamo a pizza? Forse li invento, siamo poveri di cash ma ricchi di rap. Qui sticchi le rap, ogni rima dice mi dai sai casa come il culo di Nicki Minaj. Stronzo ti batte, anche se visibilmente molto più forte. Ogni rima tua è sotto a 7, io la metto sotto a 7, colpo di tacco. Hai mai sentito parlare del crew Mamma Macete? Taglia le teste tipo Mujahideen, hardcore sul beat, siamo Kill Supreme. Sta gente lo sa come va, sul palco nessuna pietà. E questo è tutto quello che ho, tutto quello che ho. Hai mai sentito parlare del crew Mamma Macete? Taglia le teste tipo Mujahideen, hardcore sul beat, siamo Kill Supreme. Sta gente lo sa come va, sul palco nessuna pietà. E questo è tutto quello che ho.